dei piccioni, animali, no, non va bene. Ce l'hai sempre dentro casa. Tu fai come ti sto dicendo io, prendi quei bidoni, ok, ci sono, mi pare, da, c'è quello grande da 15 e poi ci sono da 5 e da 10 anche. Vedi tu, ne puoi prendere due da 10, se le spaccature non sono molte, io non le ho viste. Se le vedo mi rendo conto quanto materiale ci vuole. Se poi la spaccatura è molto larga, si fanno delle strisce di legno, ok, già c'hai la macchina tu, si mettono in mezzo e poi si passa il rullo sopra. Automaticamente, siccome è molto collante, come molto, come si dice, collosa, il legno, quando tu le passi il coso, il rullino, se lo tira, capito? Se lo tira, fa spessore e poi quando asciuga se ne dà un'altra passata. Però intanto la prima mano bisogna dargliela, farlo asciugare e poi magari se ne dà anche un'altra e allora sei a posto. Compra un rullo non molto grande che entra dentro il bidone, e un manico telescopico per rullino e il coso prendi, capito? E basta, e boh. E poi vediamo. Ci mettiamo e si fa, perché cazzo così non puoi stare. No? Comunque, ho detto, la spaccatura non è molto, 5 mm. 5 sì, non di più, capito? Quindi. Comunque, io comunque glielo dico lo stesso, se lo vedo Venturi, capito, io così non posso continuare. A parte il dolore del disco, pulirmi tutto la veranda, la roba nera che descende, e la pioggia, è un casino, non posso fare niente. E cioè, io potrei benissimo stendere anche sotto la tettoia, non posso stendere. È come che sto stendendo all'aria aperta, a chi mi rifara leva, è un casino. Guarda, per carità. E domani viene a 50 e niente, una pulita me la dà lo stesso, comunque. Io ripeto, sì o no, o no, o no, io sì, lo faccio per sabato prossimo. Se voi siete d'accordo, sempre tempo permettendo, giustamente. Invece una bella giornata, Tony, capito? Può essere bella di mattina, sole, in modo che sia asciutto, adesso non lo puoi fare perché ha piovuto un bel e sicuramente l'eternite assorbe molta acqua e quindi è umida. Lasciala asciugare bene, se sabato prossimo fa bella giornata, già da mattina, ci organizziamo, capito? Tu prendi tutto il materiale, se lui vuole o non vuole, tanto ci abiti tu, quindi non te la futti nulla, te lo fai per te. Se ci hai buttato 100 euro ce la biglia in culo, però ne vale la tua pulizia e la tua sicurezza, capito? E si fa tranquillamente, a costo di valore è cara, non ce n'è problemi, appoggiata la scala piano piano, no? L'importante è tappare quei buchi che non ti entri acqua a quei livelli. Intanto io vedo com'è il tempo e mi prendo un giorno di ferie, non c'è problema, così il sabato sono da mattina, capito? Là. Questi lavori bisogna iniziare da mattina. Appunto, tu vedi, se il tempo è bello, ti fai dare una giornata di ferie e si fa lavoro. Vai, Emanuele. Se il tempo cattivo, anzi, a mano è nuda, ha fatto i sedui di leva. Figura di tutto l'inverno cosa sarà. Stiamo fuori, fino a quando scende una goccia, ma vaffanculo. Ma chi diventi a un rio, chissà, veranda non mi sta più bene, scusa, Se devo uscire fuori, fumiamo una sigaretta, o c'è gente a cena, o a pranzo, che sta piovendo, devi uscire fuori, fumarsi una sigaretta come te e me, no? Va di, cazzo già giudicà, cura baracqua. Ma ne manco, a chi ti sembra che cura baracqua, secondo che tempo è. Hai visto via Fonanini, là, la fotografia come te l'ha lagato. E un bei intervento di vigile fuoco ho visto comunque. Ma forse i dombini non li bulli mai e la volta che va a vedeva si è legato due sassali. Se vanno passata l'acqua così per 4-5 ore qua a Sassari. Io stamattina ho controllato qua, sono sceso in garage perché di solito non ci scendo quasi mai, perché l'ho affittato. Ma era tutto allagato, fino in fondo. Ho visto le macchine, addirittura l'acqua è entrata dentro il garage dove c'erano i mobili capocondomino. Sì, gliel'ho visto, Antonè. Ce l'ho presa in pieno perché sono andato a prendere a mia figlia al lavoro e sono passato da lì. Grazie. KK al Cagliari, anche se inamichevole, sta vincendo 1-0 contro la Roma. Rog, il nuovo acquisto mi dirò Cagliari, dai qua. La Galeva che li tiene gli avverani. Se non vedono i calciatori di Nagavirà. Beh, signori Milli, io stacco un po' perché devo andare a prendermi qualcosa che ho finito di fare solitivo, per esempio, e vedo a comprare. Ne ho, mi sembra solo 3 o 4, e quindi adesso vado a comprare 4-5 pacche grandi. E qualche altra cosa che mi servirà. Va bene, signori, dai. Io faccio QRT, la roba per la stesa, bella, bella. Domani mattina, tra una bella giornata, mi lavo anche il piumicino leggero, lesivo e le lenzuola, federe e tutto quanto. E metto gli altri sotto. Io ogni fine settimana me le lavo. Grazie a Dio. Mi piace essere pulito. Ok, dai, ci sentiamo più tardi in tal caso, dai, se vi trovo. D'accordo? Ciao Antonello, ciao Claudio e ciao Manuel, domani mattina passi do quella roba tua, così c'è anche l'orario e sto quanto. Al piedi pritti. Ehi, te lo stavo per dire, e così in caso è a me lo guardo l'orario, tanto sarà in mattinata, penso. E cappa. Va bene, dai, alle prossime. Ciao Tony, ci sentiamo. Ciao Tony, ciao. Ah, stasera se coincide, ma non penso, sono già le 7:04. Anch'io rimango in Querix. Ok, ci sentiamo dopo se ci siete, dai. Ciao. Ciao Cla, anche a te, dai, ci sentiamo così più tardi. Ciao Cla, ciao, alle prossime. Pompugno! Dimmi tutto. Come la sirena, mi. Arriva l'ambulanza. E allora, ambulanza, quello è l'allarme del coso, del portatile. Comunque le portatili vanno benissimo, Antonio. Ti sto dicendo che ce la voglio 88 io, ne avevo due, comprati. Li ho comprati in via Napoli, ne avevo pagati 30 euro, tutti e due. Gli ho fatto sistemare le frequenze da Stefano, un treno erano, tutto il centro. E qua, per non guastarsi, li ho venduti a Marino li ho venduti. E tubano che cosa male, tubano, quei portatili. Gli 8, avevo fatto mettere 8 canali PMR e 8 LPD. Erano bellissimi, erano. Quindi figurati tu. E io sto usando quello lì, sto usando l'888, quel portatile è brutto perché non vedi niente, c'ha due manopole, due pomelline, boh, non vede né Smith né nulla. Escono veramente bene, poi c'erano i cinesi anche quegli apparecchi, ti vendono la coppia, costano 40 euro due portatili, poi vabbè oggi li ho visti 6 euro 50. Addirittura l'uno su internet. Quelli lì sono quelli li devi riprogrammare, però li devi mettere i programmi. Beh, tu ti devi programmare perché la frequenza che c'è non è la sua, è 162 125. Già lo so e non dirà a me. Figurati. Quando avevo comprato gli altri, i GFK si chiamano, quelli cinesi, vado a cercare la frequenza su un asilo, ma che cazzo vanno questi apparecchi? Sono andato con l'altro apparato, allora ci ho messo lo scanner, finché non ho trovato la portante, 162 125, ma hai detto vaffanculo, cazzo. Poi sono andato lì da muraglia, vedo che sono quella tipa che lì alla cassa, no? Prendeva il portatile, lo pigliava per caso per l'antenna. E ho detto, ma cosa sta facendo? Sto parlando con portatile per chiamare i miei colleghi. Ma non mica si prende da dietro il portatile, mi scusi. Ho detto, cerchi di pigliare, dal fianchetto, ho detto. Si manopola così, gli ho detto, portatile, non dall'antenna. L'antenna, ho detto, gli rimane in mano, gli ho detto. Perché c'è una molla e un condensatore, se stacca quello, ho detto, non riceve più niente, ho detto, nell'apparecchio è stato meno l'antenna, gli ho detto. Vabbè, Mamma mia, cazzo ne abbala oia, oh ne abbala oia, da poi col tempo cazzo beggio ancora. Mi ha scritto una, mi ha scritto stasera. Aspetta, cosa, adesso te lo dico cosa mi ha scritto. Guardate il messaggio. Aspetta che torno indietro. Cazzo mi vuole lunedì, mi vuole. Io torno indietro. Allora, ciao Antonio Bittavo, sono Amanda, la manager dell'azienda qui nella tua città. Abbiamo bisogno che tu contatti il nostro team oggi, abbiamo un posto disponibile per te. Inizio immediato lunedì. Nessuna esperienza necessaria a vista del sito, nonostante sottostante invia il tuo curriculum oggi. Accedi ora al sito qua sotto, registrati nella posizione vacanze, che proprio sembrava una pigliata per il culo questa a me. Quindi, ho preso e non manco l'ho risposto. Ma dov'è? Che zona è? Non so, c'è scritto gruppo del lavoro, c'è scritto. Gruppo di lavoro, poi non ho capito cosa cavolo vogliono fare. Abbiamo bisogno di accedere al sito, così conferma. Abbiamo bisogno di accedere al sito, ora vai alla scheda del curriculum, conferma che sosterrai l'esame, per lavorarci scegli il tuo programma dell'esame e invia un telefono per contattarci, vai e cocca di vai. Che c'è roba di cooperativa, qualche cosa di cooperativa. Gruppo vacanze di cosa sarà? Una presa per il culo? Se no non ti chiamano, capito? Evidentemente qualcuno è andato lì, ha presentato il curriculum, ha fatto l'esame e ha detto vai a fanculo, vai. E adesso ti prendono, ti provano. Se va bene per una settimana ti assumono, se non andi lì in discagrida non sei manco pagato. E a me per quello già non mi presento, non frega niente di quello. Ci sono tanti altri lavori. Adesso ti cerco quell'indirizzo così ci vai tu. Al coso, alla. E portare da mangiare così, all'ospedale. Intanto roba senz'altro delle. Come si dice? La società che c'è. Che manda lei. Che cosa all'ospedale, come cazzo si chiama? Bandiera gialla, vero? Ma la bandiera gialla lo portano in ospedale, così è? Sì, la bandiera gialla lo sai che fai in pratica fai passi per l'ospedale, già lo sapevi quello? No, non sapevo, ma cosa intendo? E quindi fai passi e li trasportano lì. Esatto, sì. Qualcosa al centro della Caritas, praticamente. Esatto, sì. Devi andare su subito lavoro. Devi andare. Ti scrivi di lì, tanto è gratis, non è a pagamento. E c'è scritto il nome di quell'azienda lì, c'è scritto. Ti mandano tutti i giorni se c'è qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, capito? Sì, già ho capito. Adesso provo a vedere, accendo un attimo qualcosa e provo a vedere se c'è qualcosa. Subito lavoro, invece, cara. Ti fai l'iscrizione, tanto ci mette solo nome, cognome e basta, non ci devi mettere altro. Poi loro ti mandano dei messaggi, eccetera, eccetera, e ci sono le candidature, se vuoi che poi mandi il curriculum direttamente da lì, e una volta che c'è la candidatura poi ti chiamano loro, capito? Poi mandi il curriculum e ti arriva la risposta. Ma tu ti arrivi là il combattente, vai cazzo adesso che sei a casa, te la prendi, tanto da lì ce n'è una lì vicino. Di scuola guida. Sì, ce n'era una, finché non l'hanno arrestato. E chi? Io lo sai chi, quello che c'era via con la luzza. De Montis. De Montis, sì. perché toccava le cosce, anche se era froscio, ma... Io avevo preso io la patente, cazzo, fatelo conto, 23 anni fa. Fatelo conto tu. Bello è entrare, sai dove a lavorare? Dove c'è gli uffici del... come si dice, il fanculo, dove c'è a carica, lì, che in pratica il marito l'hanno arrestato, lì fa la custodia ancora lì, ma ormai c'aveva 60, sarà la pensione, se intervista è bene. Cazzo, vabbè. Comunque lì, allora, lì, adesso lì cosa hanno fatto? Mi sembra che c'è una lavasecco, c'è lì, a gettoni. Sì, c'è una lavasecco a gettoni, infatti. Quello vicino a scuola guida, dov'è? In via Pascola e basta, c'è. Non ce n'è altro lì vicino. Boh, non so quante ne siano rimaste di scuola guida, perché erano parecchie che facevano così, capito? A conto... comitiva. Che devo entrare avanti? Sento Emanuele, Emanuele. Ma chi? Sebastio, contro l'antenna. Mi senti Emanuele? Sebastio, ma chi? Ah, dimmi. Allora? Sento, adesso. Deve essere in macchina. No, è a casa sua, che macchina. A scali che ti sento. Parla, ma chi? Sebastio di modulazione. Non lo so. Male, stiamo andando. Segnale 1, ieri mi arrivavo alle 9.20. Tutta scariche. Sono con una sera cercando di trovare l'inghippo, non riesco a trovarlo. Una sera, mi dà stazionare a Cascetti. No, sto scendendo a basso, ma chi? Controlla col PLD, mi sembra strano che cazzo ieri ti ascoltavo benissimo, è come che eri qua. Aspetta, cambio radio, vedete. 3, 4 radio. Tu lo senti, Pompo? Basso, lo sento. Ieri usciva una cannonata. Mi arrivava a 9.20 ieri, usciva benissimo. Basta pensarsi l'antenna come si deve, cosa adesso che antenna c'ha? Se c'ha quei bauli come antenna. Sì, avanti. Sento dei bambini parlare. Cos'è l'antenna? Che sento dei bambini parlare, ho detto. Ma io non intendo nessuno. Ogni tanto già appaiono. Ci sei, Bacchi? Bacchi? Negativo. Tu bene mi ascolti lì, Antonè? A voglia. La modulazione com'è? Bassa? No, segnale 7, radio 5. Andare. Tu con cosa sei commutato? Con quell'antenna, sempre con quella? Con la direttiva sono sempre. Già mi ascolti bene allora. Se faccio il book per l'X300 ti incendio del tutto. Adesso mi prendo appena possibile il motore per girarla. Mi metto il palo per i fatti sui, come la giro in verticale la punto di asseno, riparo con la Cosic. Cazzo, il motore dove l'ho visto? Lo stavano vendendo su internet, mi sembra sulle 100 qualcosa. Non hai visto il Petrus 100 euro? Nuovo. Solo che ne manca il coperchio, cazzo. Il Petrus? La Galax? Ehi, 100 euro lo stanno vendendo. Questo c'ha 7 baracchini in vendita, c'è il Petrus 100 euro. Nuovo, sai vuol dire nuovo? Quello sembra uguale a Saturn Eco, solo per Petrus, c'ha il frontale metallizzato. Che cazzo, ma se non c'è il tappo, cazzo, non è nuovo, no? Già scacciavettato, bull. No, non lo so, dove c'è scritto che funziona, c'ha tre tipi di... 3, 7, 15 watt, non lo so. Quindi funziona, poi c'è altri 4-5 baracchini, un BVC131, mi sembra 40 euro, una cosa del genere. L'ho visto oggi, su Facebook l'ho visto. Ho capito Antonio, ma ora se si prende una radio, cazzo, non è che ti lo dai senza tappo, no? Alla foto sembra senza tappo, poi non lo so. Guarda tu, già lo sai in quale sito dovevi andare. quando sei su Facebook, basta controllare, come si chiama, prodotti consigliati di oggi, capito? C'è quella specie di casetta, entri lì su Facebook e c'è questa roba in vendita, c'è. Mi sembra che l'ho visto, Sì, ma chi? Marzio, sì, senti allora Radio 2. Ti ho detto, c'è un inghippo, non riesco a trovare l'inghippo, diciamo, le sezionali come sono. Come mai stai facendo così? Boh, a me lo dici. Le sezionali sono 1.15. Boh, se non tocchi niente, aspetta, stiamo suonando. Antonello. Sì, io ti sento, segnale 1. No, stamattina funzionava tutto ok, stasera nada di nada. Quanto l'ansia che sei entrata con le pelle, niente di strano. Qualche pelle, bisogna che mi metta da un capo e li faccia tutti. Un capo che hai fatto tu? Ma fine, stamattina andavo a bomba, adesso nulla. Oh, è strana la cosa comunque. Se funzionava stamattina funziona anche stasera, ma stasera non ha mica piovuto, anzi stamattina si è piovuto, a meno che non si è entrata acqua stamattina. Oppure vuoi la pioggia, con la pioggia funziona meglio. Boh, a me difficoltà non me l'ha avuto, cioè non me l'ha dato la pioggia, la verità, neanche nella direttiva, anche perché l'ho riempito bene di silicone. Dopo il silicone ci ho messo un altro vulcanizzante nella direttiva e gli ho detto adesso non entra più là, non entra più acqua, te lo dico io. Ma anche la ricezione, adesso ho messo la mano vicino all'antenna e ho aumentato la ricezione. Boh, non so cosa dirti, la verità. Comunque sei basso veramente. Ti ascolto che sono con la direttiva, figurati. Infatti. Boh, sì, adesso inizio da un sacco tutto, inizio da un capo e le taglio tutti i pelle e le faccio a nuovo. Marino, non hai sentito Bacchi? Ma chi? Marino. Ah, Marino è dormito, non l'ho sentito, no? Sì, hai visto che non è dormito, no? Sicuro che sì. Sta riposando. Bene, bene, dai, io continuo il mio lavoro, c'è un casino che non finisce più. Le stacco tutto e rifaccio tutti i piedi. Ci sentiamo... Zinco. Salutissimi, saluto anche Antonello che non mi ascolta e se entra Marino da solo all'ascolto. Anda bene bene, riprendi con noi. Ciao Bacchi, controlla comunque con l'antenna lì. No, l'antenna, più che altro sarà il PL. Vai, pompo. Secondo me si è bagnato l'acqua all'ora di pranzo il PL. Certo, sì, una bomba rimane. Io ti usciva benissimo. Ma che cantina sta usando? È un altro costruito che si è fatto lui. Ma perché non si mette una X300, una X30? A me non deve stare sventiale, non costa niente, boh. E piazza una, boh, non deve stare a sventiale così. Se sto usando il gommino della radio. Sì, il gommino. Gommino della bicicletta. Il gommino d'aria. Cazzo, se vuoi la macchina, non la macchina 50, la macchina elettrica, 3.000 euro è cinese, te la fai inviare per posta e sei a posto. Cazzo, da voi si faccia che questo deve andare in Cina per la Rubis. No, fa un bel po' di chilometri fa, tra l'altro di 65 euro. Ma bella me. Buon pugno, guarda se mi ascolti adesso. Sempre uguaglio. Cos'è bloccato, Bacchi? Non se ne fa la ricezione di più. Aspetta un attimo, Antonio. Sì. Bello, ragazzi. Ah, ne vedi i soldi qua. Cos'è, pompo? Cazzo. Tu disino provoca, guardate quanti soldi faccio spacciando in Italia. facciatore di Tresino. Dare gli hub fahami, ci vuole il provvedimento, lo faccio la droga. Cazzo di abbo. Se non arriva a zone nud. Ah, guarda. Sei entrata a casa sua, guarda. Sei entrata. Avevi avuto una giusta, l'avevi pigliato tutti i di là. Lasciaci, l'avevi anche lasciato. Tutti i soldi l'avevi preso. Poi l'avevi preso e l'avevi appeso al muro. E aveva scritto Allah Akbar. E aveva messo la bandiera dell'ISIS dentro, l'aveva messo dentro a casa sua. Era tranquillo che lo scemo, e poi l'aveva messo sul sito suo, sta tranquillo, non aveva più fatto un cazzo nessuno, sta tranquillo. Non le fanno nulla. Sì, non le fanno niente. A Sassa gli è andata male, sta tranquillo ai nigeriani, perché gli avevano sparato, gli avevi visto anche tu, al bar, a uno, quindi devono stare ben attenti qua a Sassa, no? Sono già stufati i sassaresi. Secondo che trovano cazzo, pigliano gli bucano le gambe e hanno finito. Ehi, fiore, fiorellino. Fiorellino, ciao Maria. Che? Beh, ciao Maria. Beh, ciao, buonasera. Beh, non eri su 23. No, perché poi hanno suonato e c'è la gente. Infatti ti stavano chiamando. Non ha risposto. Giulio ha detto che Emanuele è andato a mangiarsi la banana. Come ascolti con questo portatile, Giovanni? Siamo a due passi, io ti sento a fondo scala e la radio è fortissima. Andate, dai, funge bene, dai, funge bene questo portatilino. Che ha fatto questo portatilino? Che portatile è l'888. Ma quello che ti ho dato io, a te l'hai ancora? Sì, quello lì è l'888. Ah, quello lì è... cosa l'hai messo? L'antenna serve? L'antenna sua è. No, arriva, cazzo. Arriva perché siamo due passi, capito? Beh, siamo vicini, sì. Allora. Cazzo. Stanno chiedendo controlli, c'è il valino pure. Quello lavora così, da Marchetto lavora. Sì, già lo so, il fratello Giuseppe. Già lo so, no, Giomari, già lo conosco. Ah, il fratello di questo Giuseppe che passa sempre qua da lui? No, Giuseppe è quello che lavora a Marchetto, anche lui, in via del Porto Torres. Ah, che non glielo si chiamava. Mi sembra di conoscerlo, il fratello lo conosco, quello che lavora in via del Porto Torres. Eia, lui. E quell'antenna che vedevi, che pensavi che era di quello lì, era la sua. E dove? Ti ricordi che eravamo davanti alla posta un giorno? Penso. Ma sulla posizione? Eravamo davanti alla posta, che ti ho detto, questa qui è l'antenna di quello lì. Adesso mi ricordo, sì. Ecco, ma arriva sempre bene lui, capito? Va benissimo, lo sento varie volte, prima lo sentivo molto più spesso, anzi mi dovevo fare nel 25, oggi è vero, ma lui non c'è mai venuto a prenderlo. Dove l'ha legato, si veniva. Gli ha dato, mi sembra, un microfono coso, Luca. Andava, no, ma adesso sta usando un 140, sta usando. Già l'ho sentito. Va bene come apparecchio, cazzo, apparecchio se buono, cazzo, poi dice che ha fatto l'affare, dice che è nuovo, per cui ha fatto l'affare, va bene, vanno bene quegli apparecchi, dai, quando sono trattati bene, quando, sa, quando comincia a aprirlo, a toccare, allora non vanno più bene, però se è originale va bene sempre, dai. E beh, se le radio non sono toccate vanno bene, sì. E le vedo si vengono da mirare le labbra, le docca, le vasi non sono più belle. Ma è così, Non si toccano, no. Devi vestire come il tenascidi, devi lasciare come il tenascidi l'apparecchio. Però qualcuno cerca di migliorarlo. A certi fa bene quando lo migliora, a certi fa male, per cui va bene così, dai, ognuno fa quello che gli piace e che crede, capito? Ti ho visto passare, Giovanni, dove eri in campagna? Sono sceso in campagna, ho pensato per un po' se ci aveva piovuto. Ha piovuto parecchio, per cui la terra è molle. Ah, mi sono fatto un giretto, però sarò scendendo domani mattina, sì, perché la mattina è tutto bagnato adesso, mentre invece la sera è asciutta, allora ho preferito scenderci stasera, va. Ho fatto bene, infatti ti ho visto passare, ha giocato male la sera in campagna. Ma sono sceso alle 5, minchia. Ho sceso alle 5, 10. Ma è il rifornitore, a che lo chiedono la sera? Alle 7, 6:30 a 7. Che pensavo del passatempo alle luci gialle, che ce l'ha già chiuso lì. No, quello lì mi sembra che stanno è chiuso, e aperto quello più giù. Chiuso è quello. C'è solo l'automatico aperto e basta. Stava parecchio, però ho chiuso quello lì. Sì, c'è solo che metti i soldi nella macchinetta e non ve nessuno. Però mi ha fatto una mente di scendere giù alla Woody Woody. Siccome io la mettevo sempre lì, capito? Perché c'è una scheda che mi insegna e ce l'ho scorto quando vado a capo, capito? E sono passato lì, ho visto che era chiuso. Anzi, siccome dell'automatico non mi sono fidato, anche un paio di volte mi ha fregato, e allora ho preferito, già mi basta scendere in campagna e sono sceso. Infatti si è accesa quando stavo salendo la spia, così che già mi è bastata. Io ho preso l'antenna, me l'ha fatta, me l'ha finita a Bacchisio, sono andato giù in garage, ero con Marino, e l'ha fatta bene, dai. Perché di saldata era? Sì, un po' il radiale era un po' di saldata, poi gli ha messo adesso uno stile più lungo al centrale, adesso già va bene, dai, va benissimo. E quanti radiali c'ha quella lì? 3 radialini. Aspetta, chi è che vuole entrare avanti? Ehi, Antonio sono, mi sentite? Sì, Bombo, ciao, buonasera. Vai Giovanni. Che? Bombo. No, buonasera, mi sentite? Basta, lo sento, siccome stavo con l'antenino in terra io, Tanto, buonasera. Buonasera, io mi sono dovuto mettere... ma non mi senti a me, perché... Capito, ma vai. Dirmi un po' bene, dai. Già ti sente Giovanni? Ma io lo sento a lui. L'ho sentito in mezzo a correre la prima volta, adesso ma vediamo un po'. A tu. Capo, sento più a te, sento più a te che a Giovanni. No, negativo, lo sento, ma dov'è? Niente da fare. Sono sul tetto, dai. Dove sei tu, Antu? Sono qua in Corso Vico, zona Corso Vico. Lo portate, sì. Ehi, a K. Ma si può dire che è andata la capicciuria? Seriale. Ma mi ascolti bene lì a Corso Vico? A te sì, a te ti sento fortissimo. Andare. Ehi, Giovanni sta usando un antennino, dai. Vabbè, già lo so, K. Tu forte mi senti già la teologia? Radio 5. Segnale 2-3. Insomma, un'antennina in gomma. Ok, dai, continuate che io faccio altro. Ok. Vai. Giovanni. Scusa, Antonio. Vai, Giovanni. Chiuso. Ciao, Antonio. Ci sentiamo allora, vai. Alle prossime. Buon proseguimento, serata. Ok. Così è. Beh, tu sei con la serra, ma è chiaro che tu lo senti bene. Cos'è, Giamari? Ho detto, tu sei con l'esterna, ecco perché lo senti bene. Io sono con quell'antenino piccolino, però. Capito, la parte tua. Lui era col servico, era, col portato. È per quello che non ci arrivo, però andata lì non ci arrivo. Eventualmente è lui, e forse il comportatelino, no, oppure magari la zona diversa, capito? Perché Natalino lo sento quando parla. Sì, ma Natalino c'ha l'antenna esterna, lui c'ha l'antenna in gomma. Ah, se con gomina anche troppo. Però prima lo sentivo, mezzo a correre però l'ho sentito. Però non si capiva cosa stavo dicendo perché si portava il QRM appresso. Ma chi? Antonio? Vabbè. Va, aspetta che attacco l'altra antenna allora, va. Almeno è più forte Santiago, no? E il cazzo più forte? Se mi scende dalla radio, lo smette. Vedi un po', c'è la differenza, ma è così, dai. Così adesso l'avrei sentito perlomeno, se possiamo. Anzi, vediamo un po' se c'è ancora, tu. E ha chiuso là. Era sul tetto, era. Così è. Ma adesso c'è Tore pure sul 23. Sì, già sto ascoltando, c'è Tore, Giulio, Bacchisio. Chissà Strugatta. Casa prima sempre il 23 a vaga, quando lo vedi il 23 si rimane la luce, quando altri l'udizi, quando lo vedi il si rimane ai rocchi. Bah, oh yeah. Vabbè, a me lo si chiacchiera là. Vabbè, oh yeah. Cosa vuoi fare? Allora se ne andato nel 23 Antonio Bombolo. Ah? Nel 23 Antonio Bombolo. Ah, yes. Oh, non sapevo che aveva fatto la sollocata a Corso Trinità. Sì, è già qualche mese. Ecco perché non l'avevo più sentito. Ah, se lo vedevo tutti i giorni quando andavo a lavorare, che passavo con la bicicletta elettrica. Lui c'ha la bicicletta elettrica, no? E lo vedevo tutti i giorni passare. E tanto è che non lo sentivo e non lo vedevo. Evidentemente è traslocata, beh, si è ritirato a casa sua adesso. Sì, vabbè, adesso se ne è andato lì a abitare. Aspetta un attimo, Giomari, che provo ad attaccare l'altra antenna, quella che ho messo di Bacchisio, e vedo un po' come mi ascolti con quella là, sia di modulazione. Giomari, mi ascolti? È chiaro che ti ascolti, il segnale è forte, la radio è più bassa però. È più bassa, sì. Bassa, eh. Quella che abbiamo saldato noi, provatela. Sì, l'ho provata, ma no, ma arrivavo basso, ma secondo me la posizione. Oh, prova a attaccarla, ce l'hai davanti. No, non ce l'ho, l'ho messa via, Giomari. Questa è bassa, La radio è molto bassa. Rispetto all'altra, sì, aspetta un attimo. Il segnale è uguale, no? Il segnale, cazzo, perché siamo vicini, il segnale, però la radio è bassa. Un bel bassa, capito? Da poc'anzi adesso c'è un abisso. Cazzo, aspetta un attimo. Giomari, adesso va bene. Adesso è proprio fortissima la radio. Quella lì è un'altra cosa. Ma quella di su sai usare? Sì. Cazzo. No, oh, è troppo bassa quella là, capito? C'è tanto Bacchisio, non è bassa, io sono con l'esterna, così che ti sento molto basso con quell'antenna. Ma non c'entra niente l'antenna, magari è il microfono, diverso. Ah, oh, vai, cazzo. Troppo bassa era la radio. Bassa. Per cui sono... già mi dica. Aspetta un attimino, Manuela. bene? Sì, Mari. Beh. Mi ascolti, sì. Mi ho finito che stavo lavorando, stavo infilando del cavo dentro un tubo corrugato, quello che stavo dicendo, dalla centralina al posto, diciamo, al portetto. Là. Finito adesso, domani mo termino. Pensavo che ho trovato dove cazzo era il guasto, e ho già infilato il cavo, domani li continuo. Tutto a posto? Sì, c'è la Gio Maria, si è sentato un attimo. Ok, Bacchisio? Bacchisio, entra e si abbassa il dosa. Attenzione, gigante. Invece Tore non è entrato? Tore è sul 23. Ma che Tore? Sì, Vettore, Giulio, la cliente. Sentito, ma Tore ho sentito, boh. Attento, Marino. Gigante, avanti. Buonasera, avanti. A mi ascolti? Forte e chiaro, va benissimo. E allora perché siamo una sera sabattando con l'antenna e nessuno mi ascolta. Ma sarà sei tu, Bacchi, avassi! E non ho fatto nulla. Adesso stavo ritirando tutto e ho acceso. Ma lo si arrivi abbastanza bene, Bacchi, va benissimo, là. Pulito. E tu lì? Sparo è. Sì. Dopo, va bene, dai, devo scendere a prendere le medicine, è già tardi. Ciao Marino, sentiamo, ciao anche a Alfonso. Ci sentiamo domani. Ok, ciao, va che ben sentito, dai. Dato di casa, domani sei con Cine. Io domani devo lavorare. L'ho scappato per domenica, invece. Mi mancano anche tre. Ok, dai, già passa. Meglio Gai, a domani, va chi, avanti, Manuel. Un frigitorio c'è stato. L'hai detto, va chi? Ho detto, ho sentito un frigitorio. E chi è questo, Manuele? Mano. Manuel, guarda che non sto scendendo. Sì. Nulla. Non ti sentono. Ok, dai, domani, Bacchi, ciao. Sì. Guarda, Emanuele non sta uscendo. Emanuele deve essere. Bacchi. E Figaro, come si va? Non stai uscendo, Emanuele. Sì, no, sono io, Tony. Ciao Giovanni. Sono lì. Buonasera anche a Tonino. Buonasera anche agli altri. Dai, io chiudo e ti devo scendere giù. Ci sentiamo domani. Bye bye. Ciao Giovanni. Che passa a casa? E vabbè Tonino, se sei un cocciamento, non mi intendi? Adesso è passato qua, ma ci ho telefonato, mi sono sceso in magazzino per quel... Oh boh, andiamo qua, andiamo. Oh, e caso perché non è venuto, non ha suonato. Io ce l'avevo in cucina al telefono. La Puglia! Manuel! Che sta guacchino! Ciao Tonino, ci sta ascoltando, ciao! Sì, Tonino! Sì, Gio Maria, vi siete in casa, vi siete sopra Modulendo, ora con l'acqua, non comprendo né uno né all'acqua! Che casino, Manuel, Bobo! Vai Mari, è appunto il casino, si può andare a fare da uno con l'altro, buh. Cos'è, l'ecco hai messo Manuel? Sì, lecca lecca c'ho. Ah, lecca lecca c'è, bravo, bravo, continua a leccare. Solino! Dimmi Fiore, vedo un gazzotto, boh. Marino! Sì, Emanuele! Ehi, chi sei pure da botta? Ti stavo mettendo la sovrapposizione. Vedo un gazzotto. Ma non te convidano? Fumego. Ecco. Torino. Non ti sento, tu non fossi, io sento, boh. Ti sento, torni sotto a fondo, ma è tutto, boh, tutto fusco. Ehi, tu. Giomari. E che se Bettolino il telefono, se tu non rispondevi. Se c'avevo il telefono in cucina, non ho sentito il telefono, ero in camera io. E la bella leggermente non mi rispondiva in oggi. Se c'avevo il telefono in cucina. E poi te l'ha fatto due telefonate a me e c'avevo lo stesso il telefono in cucina e non lo sentivo. Allora mi ha citofonato e so se sei giù per quella questione, capito? E beh, fatto. Eia! Eia! Andare, andare! Boh, chi altro c'è? Marino. Buonasera, Gio Maria. Ah, guardi, Marino, buonasera. Bello fresco, bello pulito, bella modulazione, è la ora. Ok, ma c'è qualcuno che sta mettendo a portante, Emanuele? Non ho capito. C'è qualcuno che sente pure col fischio, boh, che cavolo è? Se si l'aveva saccata in culo aveva fatto il blu ma a voltante. Hai sentito cosa stavano facendo? Dai, ma noi ci sentiamo là, domani, dai. Grazie, vedi che sono appiccato e per cui a Marino lo sento in mezzo a QRM oggi, boh. Comunque, dai, ci sentiamo domani, dai. Ciao Marino, buonasera, saluto di casa, ci sentiamo domani se tutto va bene, ciao! Tutto ricambiato, Gio Maria, domani dai se coincide, ok, avanti Emanuele! Ciao Gio Maria, buona continuazione, buon tutto, dai, ci sentiamo domani! Sta mandando la registrazione quello lì, Mi ha detto la registrazione si deve mettere nel culo. Ma sta mandando la registrazione tua, eh! A vedere, le sende a tutti! Le sende a tutti! Senti, senti, boh! Non sono macchino che non vengono, boh! State attenti che stanno traslando, Mari, ciao! Oh, ciao! Ciao, ciao! Allora! Allora!